con Mario Sesti per presentare il suo film Altri Padri al cinema dal 13 al 15 dicembre 2021. Ben trovato Mario. Ben trovato, grazie, come al solito sempre attento alle cose che faccio, io ti sono molto grato della tua attenzione. Che storia è questa? Dunque, è una storia di una separazione molto controversa che in qualche maniera naturalmente ha anche un risvolto di natura sociale, visto che sono tantissimi casi, quasi più di 150.000, di partner maschili che in caso di separazioni conflittuali poi si trovano a dormire in macchina, addirittura nei rifugi della Caritas, che sono pieni purtroppo di casi di questo tipo. Dal mio punto di vista, visto che ho esordito alla tenera età di 63 anni nel lungometraggio di finzione, si tratta anche di cercare una forma di godimento nel cinema e quindi di riuscire a capire se ero capace di fare un film anche in forme che ho amato molto, come sono quelle del melodramma e del thriller. Difatti tecnicamente direi che il film è un melodramma noir. In più ci sta una scelta che credo che non sia convenzionale, perché uno dei limiti dei film italiani contemporanei è di utilizzare sempre un po' gli stessi attori. Qui ci sono Chiara Francini, che è un'attrice brillante, molto conosciuta per una parte molto drammatica, credo che sia la sua prima volta, e Paolo Briguglia, che è un attore noto ma secondo me sottovalutato, finalmente in una parte di protagonista. Entrambi sono marito e moglie, il film racconta le loro vicende conflittuali, a causa delle quali addirittura lui poi finisce in carcere a Rebibbia, dove effettivamente è girato. La mia battaglia è stata quella anche, soprattutto, di girare nel carcere vero, perché sono convinto che poi ci sono alcuni luoghi che si sono fatti di finzione e poi si vedono subito al cinema. E paradossalmente lui, quando arriva nel carcere, a causa di una vicenda molto torbida, per cui viene trovata della cocaina in macchina, però paradossalmente rinasce. Trova riparo, riesce a esercitare il suo maggiore talento, che è quello di essere un venditore, e quindi mi piaceva anche raccontare un po' a ritroso, al contrario, il fatto che ci sono alcuni luoghi, come quello di Rebibbia, dove io poi peraltro ho spesso fatto delle cose insieme a Leonardo Albinati, che è un intellettuale molto noto che li insegna, possono ritrovare paradossalmente un luogo di riparo quando la vita si accanisce su di sé. Come nasce Altri Padri? Come film su commissione c'è un produttore, Gianluca Cerasola, che aveva realizzato dei bei documentari sui due nostri astronauti, la Cristoforetti e Parmitano, che aveva visto i miei film documentari e c'era fissato con l'idea che io potessi fare un film con gli attori. All'inizio mi ha proposto dei diversi copioni, dopo un certo numero di sceneggiature, dopo un lavoro di quasi un anno e mezzo, mi ha proposto questa sceneggiatura che aveva scritto lui, che non dico che mi sembrava interessante, ma dopo averla letta ho avuto l'impressione che si formassero dalla mia immaginazione dei personaggi, delle situazioni, dell'atmosfera, anche un linguaggio. Quindi ho chiesto la possibilità di riscriverlo soprattutto nei dialoghi e soprattutto nella parte finale con una curvatura thriller, noir per l'appunto. E poi di scegliere degli attori che fossero degli attori che dovevo scegliere io secondo dei criteri che tenevano i più appropriati per questo film. Soddisfatte queste due condizioni siamo partiti. Il film è stato girato in 3 settimane e 3 giorni, che sono pochissimi. Pensa che ho chiesto a tutti quelli della troupe se qualcuno di loro avesse mai girato un film in 3 settimane e 3 giorni, e nessuno di loro lo aveva fatto, e questo ovviamente mi riempiva di angoscia e di panico, perché mi dicevo perché dovrei riuscirci io che sono la prima volta. Però il film poi alla fine è stato realizzato e a me sembra bello naturalmente, però già il fatto di averlo fatto, ti assicuro, comunque così pochi giorni, insomma è un po' una piccola vanità, un orgoglio che, insomma, che devo al lavoro su questo film. Come regista esordiente, com'è stato l'approccio alla macchina cinema con gli attori, la troupe? Dicevo in conferenza stampa a Torino, il film ha avuto l'onore di essere selezionato dal più importante festival italiano degli esordi, e credo che tu potrai capire mentre dico questa cosa, sensazione strana. Da una parte il set e la macchina cinema è un luogo di straordinaria libertà, proprio perché tutti, ma proprio tutti, contribuiscono con la propria creatività al film, senza se e senza ma. Tutti, da quello che parcheggia i truck, i camion, i pulmini, a quello che decide la fotografia, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo, però, in questo contesto di estrema libertà e creatività, che sembra quasi un luogo utopico, c'è una tirannia. Nessuno sogna di mettere in questione quello che dice il regista. È impressionante, eh? Cioè, comunque c'è un faraone, cioè lui decide tutto. Naturalmente questo significa anche che è sua tutta la responsabilità, quindi se il film è bello, se il film è brutto, se ha dei difetti o se ha dei problemi, poi sarà responsabilità del regista. Però è impressionante come queste due caratteristiche, che nella vita degli individui, delle famiglie, della società, non si trovano assieme, no? Una grande libertà e una grande tirannide si trovano insieme in maniera funzionale, non so come dire, per portare avanti e condurre a buon fine quest'opera complicata che è un film, perché è un film fatto di persone che lo scrivono prima e persone che poi trovano i soldi necessari, persone che lo interpretano, persone che fanno tutto il resto e poi c'è qualcuno che lo monta. Cioè, c'è un passaggio molto composito, articolato all'interno, che probabilmente ha bisogno di questa specie di chiaroscuro, di libertà e di potere per essere realizzato. La scelta di questa uscita evento di 3 giorni? È stata una scelta, che ti devo dire, anche un po' fortunosa, perché come sai c'è un imbuto, perché a causa della pandemia si sono formate delle liste di attesa lunghissime, naturalmente dicembre è il momento peggiore, però Ciccio, la distribuzione, hanno ritenuto che comunque bisognasse dare una chance anche a un film del genere. Va da sé che poi spero che il film trovi una buona collocazione in una piattaforma, ci sono delle trattative in atto e credo, spero che abbiano un esito positivo. In quante sale? Saranno, credo, tra i 20 e i 30 in tutta Italia, non è certo una grandissima distribuzione, però andare in sala oggi, Federico, comunque, insomma, è un risultato, ecco. E per me era importante che il film facesse questo passaggio, che tra l'altro doveva fare, perché comunque, avendo goduto dei fondi del MIBAC e di una collaborazione con la RAI, comunque il passaggio in sala era necessario e comunque per me era fondamentale comunque fare un film che avesse la possibilità di stare nella sala buia dove la gente esce, parcheggia, compra un biglietto e poi spero che lo vada a vedere, naturalmente. Poi devo dirti anche, come è stato scritto, è un film un po' imprudente, perché è una storia di una donna cattiva, nel senso che Chiara Francini, come accade a volte in questa società, dato che c'è una legge che è a favore giustamente delle madri, della protezione dei figli, fa un uso estremo di questa. Però secondo me è anche una delle cose che mi interessava, non si può raccontare oggi una donna cattiva quando ci sono tante persone cattive che fanno cose così cattive alle donne. Però secondo me anche questo è un angolo da esplorare, proprio perché la società e il patriarcato concedono pochissimo potere alle donne, quando non ce l'hanno in mano possono tendere a farne un uso estremo, e quindi secondo me è un esito anche per certi versi. E poi anche qui c'è il cinema, che è un po' una dark lady, quindi un noir, e la dark lady è il modo più interessante in cui il cinema classico ha saputo raccontare la sublime e affascinante cattiveria delle donne, diciamo così, quando ritengono di doverla esercitare in una società in cui non hanno alcun potere, per l'appunto, esatto. Il film Altri Padri al cinema dal 13 al 15 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Mario Sesti. Grazie a te, Federico. Grazie, a presto, ciao. Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per presentare il film Verso la Notte di Vincenzo Lauria al cinema da giovedì 9 dicembre 2021. Ben trovato! Grazie Federico e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Raccontiamo questa storia. Verso la notte è un titolo metaforico, non è l'ambientazione di una parte del giorno, ma si suppone che possa essere una evoluzione di una storia d'amore. Che una storia d'amore possa andare verso la notte non significa che finisca nella notte. Il film racconta le dinamiche psicologiche di due persone che si incontrano, si amano e poi si trovano avvolti nel possesso l'uno dell'altro. Hesam e Mariam sono due iraniani che vivono in Italia, tra l'altro anche gli attori sono iraniani che vivono in Italia, e si incontrano su un set di un documentario su una donna italiana senza tetto per le strade di Roma. Ecco, mentre girano questo documentario, quindi poi si interrogano anche su alcuni momenti, su alcune sequenze che hanno girato, e quindi riflettendo in fondo anche sul vedere, sul registrare, sul narrare il disagio, a loro volta si innamorano l'uno dell'altro e si confrontano in questa storia d'amore nelle dinamiche dei sentimenti affrontate come li descrive Roland Barthes in Frammenti di un discorso amoroso. E infatti ho scelto alcune frasi per rappresentare questo film da un punto di vista del contenuto etico e concettuale. E quindi noi seguiamo questa evoluzione, ma tra l'altro con una linearità frammentata nel racconto molto originale, perché segue l'evoluzione psicologica più che l'evoluzione avventurosa dei fatti, perché poi le storie d'amore in qualche modo appartengono ai racconti avventurosi. I racconti avventurosi non sono sempre quelli epici, a volte sono anche delle storie d'amore. E si aprono anche le dinamiche uomo-donna, tra l'altro, ecco, insomma, quelle dinamiche che finché si svolgono in questo modo sono anche sane fondamentalmente. Il problema è che poi, come assistiamo alla cronaca oggi, si arriva alla violenza, mentre qui sono due personaggi che stanno al di qua della linea della violenza e quindi il loro rapporto è molto sentimentale e psicologico. E quindi seguiamo queste evoluzioni, ma in un contesto in cui c'è anche una differenza di classe, perché lei, Mariam, è comunque una donna iraniana che si è sistemata da un punto di vista lavorativo e sociale a Roma, mentre Hesam è un immigrato squattrinato che viene sfruttato anche per distribuire volantini e quindi prima di cercare una sua strada cerca semplicemente la sopravvivenza. Ma l'amore arriva prima del bisogno della sopravvivenza e questo è un conflitto interiore che è una dinamica che il film racconta anche all'interno del personaggio di Hesam e poi appunto, come ho già detto, i rapporti tra di loro. Naturalmente c'è anche il rapporto con questa donna, perché loro seguono questa donna e cercano di capire perché questa donna ha finito per vivere per strada, e questa donna in qualche modo parla per profezie, ma la profezia non significa che veramente uno prevede il futuro, significa che in qualche modo legge il presente dei due che stanno facendo il film su di lei, ma che allo stesso tempo sono innamorati l'uno dell'altro. Lei, leggendo il presente, parla e sembrano profezie, un po' come il sogno, noi crediamo di sognare il futuro, in realtà stiamo sognando un riflesso, come ci hanno spiegato gli psicologi e i psicanalisti, un riflesso in realtà del nostro presente. Ecco, più o meno è la stessa cosa, questo contraltare che fa Anna, questa donna appunto che vive per strada, sembra profetico, ma in realtà è un'analisi, seppure con parole più enigmatiche e meno referenziali di quelle che normalmente siamo abituati ad ascoltare, comunque di fatto vede il presente col distacco che a volte consente a ciascuno di noi di poter dare un'analisi a degli amici che magari hanno dei problemi, perché quando ci siamo dentro abbiamo meno lucidità a volte. E quindi questa è un po' la dinamica del film, ma è interessante perché è un film totalmente indipendente, perché è stato realizzato, tutto il gruppo di iraniani e di italiani che hanno realizzato questo film lo hanno realizzato investendoci del proprio, quindi è un film che non ha chiesto e quindi non ha ottenuto finanziamenti pubblici, statali, eccetera, che non sono niente di male naturalmente, ma in questo caso registriamo il fatto che lo hanno fatto investendo in proprio e hanno meritato una selezione nel concorso indie europea del Festival di Taormina dell'anno scorso, dove i lettori di My Movies lo hanno premiato come miglior film, e questo credo sia un riconoscimento importante, e per questo vale la pena che Cineclub Internazionale, che normalmente ha una vocazione appunto internazionale, questo film è italiano ma in fondo è anche internazionale, come lo era il precedente Cufit, e quindi ci piaceva continuare su questa linea. Poi torneremo all'internazionale, ma in questo caso c'è un internazionale italiano, se posso usare questo simoro, che ci sembrava molto interessante da proporre al pubblico, e quindi così uscirà giovedì nelle sale. Ho trovato molto interessante la dinamica di coppia. Da un lato un fatalismo ingenuo che vede l'altro come qualcosa di inviato dal destino, e dall'altro una gelosia che non esplode mai in uno scontro di crisi, ma episodio dopo episodio porta lo sgretolamento della coppia. Sì, esatto, hai descritto benissimo queste dinamiche, e nel vederle, vedendo il film, uno può riconoscersi in parte di queste dinamiche, ci si può riconoscere anche da uomini in alcune dinamiche della donna protagonista del film, ma anche naturalmente in alcune dinamiche psicologiche dell'uomo, del protagonista di Hesam. Ma c'è naturalmente anche un elemento di debolezza in fondo maschile nel produrre gelosia a volte volte infondata, ma questa è un po' un'opinione che uno si può fare guardando il film, come potrebbe farsene un'altra completamente diversa naturalmente. Però ecco, appunto, è molto interessante questo evolversi psicologico, quindi i personaggi rimangono lì ma allo stesso modo si evolvono. E questo è molto interessante perché è originale, ecco, le storie d'amore ce ne sono di tutti i tipi, raccontate dall'arte, insomma, narrativa in generale, e nel cinema ne abbiamo viste tante, a volte si ripetono tutte uguali, questa è abbastanza originale. Poi è chiaro che, come la perfezione non è una categoria estetica, questo film è un'opera prima, è chiaro che ha le sue, che può avere delle imperfezioni, ma appunto, ripeto, secondo me tutti i film sono imperfetti e le opere prime, proprio per tentativo di ricerca, possono risultare, a seconda dello spettatore, in qualche punto, ma proprio queste imperfezioni secondo me sono molto interessanti, perché sono la ricerca di qualcosa di nuovo, di originale da raccontare, e la ricerca di un modo nuovo di raccontare determinate dinamiche, e quindi in questo senso, anche in questo senso, lo trovo meritevole di attenzione. In quante sale? Ecco, questo è un punto un po' dolente, perché naturalmente questo è un film piccolo, italiano, esordiente, e quindi si fa fatica a trovare spazi. Tuttavia credo che riusciremo a rispettare un po' lo standard iniziale di 10-15 sale in partenza, questo credo che sia comunque buono. Certo, il numero di spettacoli non sarà altissimo all'inizio, ma in questa situazione in cui ci troviamo ci sta, l'importante è che il pubblico possa trovarlo nelle principali città, possa vederlo, farsi la sua idea, ma allo stesso modo spingere il film a proseguire il suo percorso per avere la visibilità che merita, e poi i giudizi, le valutazioni saranno libere come sempre sono e come giusto che siano, ma almeno lo si vede e ci si fa un'idea. Quindi in questo senso conto molto sull'afflusso del pubblico, come sempre si dice, ma in questo caso ancora di più, del pubblico del primo weekend, in modo tale che poi il film possa avere una spinta per vivere anche per le settimane successive, per andare un po' anche in altre città, magari anche città più piccole, ma per essere visto un po' in tutta Italia. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere il numero delle sale e quali sale? www.cineclubinternazionale.eu, che è il sito, ma ci sono anche le pagine Facebook sia di Cineclub Internazionale sia Verso la Notte Lungometraggio, dove vengono pubblicati naturalmente in tempo più reale tutti gli aggiornamenti, e quindi dove si possono trovare tutte le informazioni, ma anche i contatti nostri per poter chiedere anche direttamente informazioni più dettagliate. Ci sarà il solito tour con il regista, gli attori, per varie sale italiane. Partiamo da Roma, dal Farnese, poi saremo a Bologna all'Orione, Firenze d'Alfieri, Genova Nickelodeon, Padova MPX e altre sale, dove cercheremo di andare a incontrare il pubblico anche con gli attori e il regista, perché questa è una caratteristica tipica di Cineclub Internazionale. Il film Verso la Notte di Vincenzo Lauria al cinema da giovedì 9 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. A presto! A presto, grazie a voi. La regista Nella Condorelli sul suo docufilm La storia vergognosa, cuntu d'amore e di riconoscenza all'umile Italia, a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne, venerdì 10 dicembre 2021. Nella, ben trovata. Grazie Federico, anche a te, grazie. Che storia è questa? Questo docufilm è dedicato alla ricostruzione della grande migrazione italiana nel continente americano, sud e nord. Io racconto una vicenda che ha riguardato la partenza di 5 milioni di italiani, uomini e donne, da quasi tutte le regioni d'Italia, prima dal nord con destinazione nell'America del Sud e poi a partire dal Novecento dalla Sicilia con destinazione l'America del Nord, Canada e Stati Uniti. Racconto soprattutto le ragioni che spinsero i nostri bisnonni a lasciare l'Italia e ad andare dall'altra parte dell'oceano, un oceano che gli era ignoto ai tempi. Quindi un viaggio verso l'ignoto motivato dalla ricerca di lavoro e di riscatto sociale. La ricerca che ho compiuto racconta quindi l'Italia già a partire da 15 anni dopo l'unità, quando comincia la prima grande migrazione, che è l'emigrazione veneta, l'emigrazione del nord, che porta dall'altra parte dell'oceano, in Brasile soprattutto, a Rio de Janeiro e soprattutto nello stato di Rio da Sul, porta più di 2 milioni milioni di uomini e di donne, interi villaggi che si trasferiscono dall'altra parte del mare. Io ho ricercato le ragioni che spinsero ad emigrare e quindi quel che viene fuori è un affresco dell'Italia lungo due generazioni, dal 1880 al 1927, che poi è anche l'anno della morte di Sacco e Vanzetti, e sono gli anni che segnano con la chiusura dell'immigrazione da parte degli Stati Uniti, soprattutto alla gente del sud, siciliani e meridionali, che segnano praticamente la fine, tra virgolette, la grande migrazione italiana. È stato un lavoro lungo. Su che tipo di archivi hai lavorato? Su due tipi di archivi, l'archivio cartaceo e l'archivio audiovisivo. L'archivio cartaceo, dal quale ho ricavato i contenuti, mi serviva a approfondire la storia dell'Italia dal punto di vista sociale, economico, cioè qual era l'Italia del tempo. E in questo mi sono stati di molto aiuto gli studi che sono stati condotti anche relativamente e risalendo sull'approfondimento della questione meridionale e dei fenomeni legati ad essa. I testi ci sono, e approfondimenti storici sono numerosi, ma poco visibili, nel senso che in Italia se ne parla poco e sono dei materiali che sono veramente ad uso solo degli studiosi, non sono diventati divulgazione più pubblica, perché della stessa grande migrazione italiana si parla poco in Italia. Se ne parla quando c'è, come dico, no, celebrare il genio italico per qualche impresa solitaria, ma di quella che fu poi, no, la natura, la sostanza della grande migrazione, di questa vicenda collettiva che ha riguardato uomini e donne e che ha avuto poi come un prisma tante sfaccettature, perché a partire poi in massa dall'Italia in quegli anni furono soprattutto i contadini del nord, del Veneto e poi i contadini siciliani, e molti di loro venivano dal le esperienze negative e desolanti della repressione che era seguita agli scioperi che chiedevano diritti contro lo sfruttamento del lavoro nelle campagne, che aveva una fisionomia diversa da nord a sud, ma che nella sostanza era assolutamente uguale. Racconto anche lo sciopero della voglia, che è stato uno dei momenti principali che ha segnato l'aumento esponenziale delle migrazioni veneta. Nei testi, per esempio, ho trovato, esiste un museo tra l'altro a Rovigo dedicato a questo sciopero, ho trovato che l'anno successivo alla condanna dei capi, uomini e donne che avevano animato questa rivolta popolare, le partenze, l'emigrazione da Rovigo erano aumentate più del 300%, si era passati da 1000 ai conti e qualcosa l'anno precedente ai 13.000 dell'anno successivo. Lo stesso avvenne in Sicilia, perché il picco dell'emigrazione si raggiunse dopo la fine dei fasci siciliani dei lavoratori, dei grandi scioperi nelle campagne per i patti agrari, a cui ho dedicato anche un mio lavoro precedente, dopo l'amnistia che mise fine anche alla galera che gli era stata combinata centinaia di anni, partirono. E quindi dall'altra parte poi del mare, tanto a nord quanto a sud, ritroviamo anche questi nostri emigranti, le donne soprattutto, di cui si parla sempre pochissimo, le ritroviamo anche alla testa dei cortei e delle manifestazioni del movimento operaio americano che chiedevano i diritti del lavoro. Il 1° maggio è una data importante da questo punto di vista, che chiedevano le 8 ore, è una storia affascinante che ho seguito. Tutto questo poi è stato supportato da un lavoro che mi ha affascinato tantissimo, di ricerca delle fonti audiovisive. Mi sono venuti incontro materiali e per la prima fase anche fotografici, che non sono però conservati in gran parte negli archivi italiani, che ho ritrovato in archivi internazionali, per esempio le riprese autentiche di un viaggio di migranti da Genova a Rio de Janeiro, quindi parliamo di Veneti, Lombardi, Liguri, l'ho ritrovato nell'archivio del British Film Institute. Immagini d'archivio che riguarda proprio gli italiani, li ho ritrovati negli archivi del Belgio, del Congress, degli Stati Uniti, cioè è stato un lavoro affascinante che ha teso una sorta di rete dalla quale poi è uscito il materiale che prende quasi il 70%, perché è un docufilm che ha anche parti di messa in scena, perché mi interessava anche raccontare la cultura, l'identità di quel tempo e quindi le musiche tradizionali, le fiabe e tutto quello che costituiva il patrimonio immaginario e non solo, che i nostri emigranti, uomini, donne, bambini e bambine che partivano anche da soli, si portavano dietro dall'altra parte del mare su cui è stata costruita poi la italo-americanità. Il sottotitolo è Cuntu d'amore di riconoscenza all'umile Italia. Sì, Federico, e teniamo tutti, voglio qui citare anche tutti quelli che hanno lavorato al film, si è formato un collettivo partecipe alla storia che raccontiamo, proprio alla storia dell'umile Italia, di 5 milioni di persone, contadini, braccianti soprattutto, carpentieri, artigiani, come dico, con redditi così magri da non riuscire a campare una famiglia, che hanno preso in mano il proprio destino e sono partiti affrontando l'ignoto, quindi rompendo tutti i confini, e in questo senso la loro avventura, tra virgolette, è simbolica e attraversa il tempo, perché anche il mio film cerca di rompere i confini del pensiero unico nel giudicare gli eventi, i confini che vorrebbe ingabbiare il Novecento in una sorta di secolo passato. Invece no, perché ritroviamo in quelle lotte di povera gente, di gente umile che ha costruito però i diritti del lavoro del Novecento, le grandi manifestazioni, per esempio ho parlato di scioperi italiani, ma potrei dire anche di scioperi americani, nord e sud, in Argentina, lo sciopero delle scope delle donne contro il carro affitti, negli Stati Uniti il grande sciopero tessile di Lawrence che poi si allargò a tante città con le donne e i bambini in prima fila perché erano la forza lavoro sfruttata nelle fatiscenti fabbrichette americane del tempo, ma tanti altri, e sono pagine gloriose di storia. C'è chi anche ha lasciato la propria vita per questo, sono centinaia che se ne sa poco, gli italiani e le italiane che sono morti per la repressione durante queste manifestazioni. Voglio citare Anna Lopizzo, di cui si parla poco, ma era una giovane emigrante italiana di meno di 30 anni che rimase uccisa durante lo sciopero di Lorenz, ma ce ne sono tanti. È veramente un canto di amore e di riconoscenza all'Ume l'Italia, riconoscenza per quello che hanno fatto, hanno costruito due continenti con il proprio lavoro, da una parte e dall'altra. Mi viene sempre in mente una frase che ho ritrovato in un documentario dedicato al vero serpico, ed è una frase che poi è diventata quasi un emblema, no? Lo slogan, tra virgolette, della grande emigrazione italiana, quando gli dicevano che bastava scavare con le mani per trovare l'oro. Dice, quando arrivarono scoprirono che non solo le strade non erano lastricate d'oro, ma che le strade le dovevano costruire l'oro. Ecco, questo è lo spirito che ha animato la ricostruzione di questo film. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie per l'augurio. La regista Nella Condorelli sul suo docufilm La storia vergognosa, Cuntu d'amore e di riconoscenza all'umile Italia, a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne, venerdì 10 dicembre 2021. Con Adriano Aprà, direttore artistico della quinta edizione del Festival Simposio Fuori Norma, a Roma, a scena dal 4 al 9 dicembre 2021. Ben trovato. Grazie. Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, il Festival Fuori Norma. È nato nel 2013 a Pesaro per una rassegna che ho curato e che ha avuto un grande successo, anche perché venivano scoperti degli autori italiani poco o nulla conosciuti. Dopo ci ho ripensato e con alcuni amici abbiamo deciso di proseguire l'esperienza fondando un'associazione culturale che abbiamo cominciato nel 2017 a programmare dei film fuori norma, cioè fuori dalle norme estetiche del cinema italiano corrente. E l'abbiamo programmata in diverse sale indipendenti, non sale pubbliche, a Roma, avendo un discreto successo che ha permesso agli autori di questi film di conoscersi, di capire che non erano soli a fare certe battaglie. Abbiamo pubblicato un catalogo e poi siamo andati avanti anno per anno, salvo l'anno scorso in cui abbiamo fatto solo trasmissioni in streaming. E adesso con Scena debuttiamo con la quinta edizione. Quanti sono i titoli in programma? 18 titoli. Come sono strutturate queste giornate? La mattina e il primo pomeriggio si discute dei film del giorno precedente e di un argomento al giorno, un tema che riguarda i problemi del cinema indipendente italiano, al quale partecipano gli autori, perché ho chiesto agli autori di rimanere più di un giorno, cioè di vedere i film degli altri, discuterli, oltre che presentare i propri, e discutere di questo argomento. In più ho invitato diversi ospiti di un certo nome e di una certa esperienza per condividere queste discussioni mattiniere. Simposio è un po' alla greca, cioè non sono conferenze, si tratta di chiacchierate libere. Com'è stata la scelta dei titoli? Noi, il gruppo di Fuori Norma, che è un gruppo di una decina di persone, sceglie i film, quelli che ci vengono proposti e quelli che vediamo in festival. Sono film di autori italiani. Tornando agli incontri, simposi, le tematiche quali saranno per l'edizione di quest'anno? Il 4 il tema è che cosa è Fuori Norma. Il 5, domenica, il tema è produzioni e distribuzioni alternative. Lunedì 6, la nuova estetica del digitale. Martedì 7, finzione versus documentario. E ormai secondo me la distinzione fra film di finzione, film documentari, film sperimentali, film di animazione non funziona più. E almeno con i nostri film c'è un mescolamento, non si sa bene come definire certi film. E finalmente l'8 dicembre l'ibridazione delle arti, cioè il fatto che molti di questi film sono sì film, ma c'hanno anche dentro pittura, musica concepita per questi film, in maniera che non c'è quasi differenza fra visivo e sonoro, nel fatto che i film si vedono in gallerie d'arte, come fa da tempo la Biennale di Venezia, o installazioni, insomma, il cinema non è più solo cinema per noi, e anche le altre arti. E poi finalmente nel simposio conclusivo di giovedì 9, la critica e il cinema indipendente, che dovrebbe essere un simposio piuttosto polemico, perché noi crediamo che la maggior parte della critica poco si interessi del cinema indipendente. Parlano dei film che escono nelle sale pubbliche, di quelli soprattutto in concorso che sono nei festival maggiori, hanno rinunciato alla loro missione di scoprire un cinema un po' nascosto. Insomma, è una critica passiva, mentre noi siamo per una critica che scopre. Delle edizioni passate avete realizzato un archivio in cui i film proposti siano disponibili? Non ancora, cioè noi abbiamo un archivio dove conserviamo tutti i film che abbiamo, però effettivamente stiamo studiando una piattaforma, con l'accordo naturalmente degli aventi diritto, in cui si possano vedere anche i film che abbiamo proiettato dal 2017 a oggi, che sono moltissimi, 150, e sono film di lungo, di medio e di cortometraggio. Noi non facciamo distinzioni, il che fa capire come il cinema italiano, che in Italia e all'estero è dato come decaduto, in realtà sta vivendo una delle sue più splendide stagioni dal punto di vista creativo, non certo dal punto di vista della distribuzione. Perché anche quei film fra i nostri che escono in sala pro forma, incassando cifre ridicole. E quindi è chiaro che c'è una crisi, una forbice si è aperta per la prima volta nella storia del nostro cinema fra quello che produce l'industria e quello che viene prodotto indipendentemente dall'industria, che pochi lo sanno, è praticamente maggioritario di ciò che produce l'industria, e i costi di questo cinema indipendente sono incredibilmente, grazie al digitale, più bassi, ma non di poco, di moltissimo rispetto ai film prodotti da industria. Lo Stato, il MIBAT, la RAI o chi per loro, spreca milioni se non miliardi a produrre film che non vede nessuno, mentre questi film sono film autoprodotti, nel senso a costo zero, un autore che fa il film da solo, e poi la maggior parte degli altri costano cifre ridicole. Che ne so, 100.000 euro, che per un film dell'industria sarebbe niente, per noi è tantissimo, per questi autori. È un fenomeno di cui l'industria non se si vuole rendere conto in maniera colpevole, e la pagherà cara, secondo me, l'industria, perché fallirà. Come fa un'industria a sostenere 200 film di finzione all'anno che nessuno va a vedere? E un centinaio di documentari che, se escono, bisogna ringraziare il cielo. È una situazione insostenibile. Io parlo di suicidio programmato, ma incosciente, cioè senza che l'industria se ne renda conto. Tornando al festival, per saperne di più, ci dai riferimenti web? www.fuorinorma.org. Quinta edizione del Festival Simposio Fuori Norma a Roma, a scena dal 4 al 9 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Adriano Apra. A presto! Grazie a te, ciao! Per il capitolo 5 de Il progetto e le forme di un cinema politico, Paola Scarnati, coordinatrice della rassegna cinematografica e degli incontri dal titolo La sinistra cinematografica in Italia dal 1950 al 1990, a Roma la Casa del Cinema dal 6 al 9 dicembre 2021 e all'Università degli Studi di Roma 3 il 10 e 11 dicembre 2021. Ben trovata! Grazie, grazie, grazie a voi, ben trovati. Ce ne parli? La quinta edizione del nostro progetto Le forme di un cinema politico, già iniziata qualche anno fa da un gruppo in particolare che si è costituito presso l'archivio, un gruppo di studiosi e di registi. Quest'anno, naturalmente anche in coincidenza con i 100 anni della nascita del PC, abbiamo progettato e studiato questa iniziativa. Volevamo appunto riflettere sul rapporto, che fu un rapporto molto stretto, tra la sinistra e il cinema italiano dagli anni 50, subito dopo la guerra, fino al 1990, l'anno in cui il PC si è autosciolto e poi tutti i partiti sono finiti. E quindi abbiamo pensato che poteva essere interessante una riflessione sulle relazioni che c'erano state tra i partiti della sinistra, il progetto culturale dei partiti della sinistra, e quindi il Partito Comunista e il Partito Socialista in primo luogo, e il cinema italiano. Allora si diceva che tutto il cinema italiano era comunista, ma in realtà il rapporto era molto più dialettico. E quindi abbiamo progettato di rivedere tutta una serie di grandi film molto importanti della storia del cinema italiano di quegli anni, un cinema tra l'altro bellissimo, veramente cinema grande, una serie di film di finzione e una serie di film documentari altrettanto belli e importanti. Quanti sono i titoli scelti? Sono 15 film di finzione, ne avremmo voluto mettere 30, ma insomma, e sono 10 invece i film documentari. Com'è stata la scelta? Faticosa, perché ti ripeto, abbiamo dovuto escludere poi dei film troppo belli, troppo interessanti, poi in più qualche film l'abbiamo dovuto escludere per necessità, tanto per non dire titoli. Non abbiamo potuto inserire I compagni, che è un film di Monicelli, così emblematico sarebbe stato in questa rassegna, ma per una sola proiezione per il nostro preventivo costava troppo, costava 800 euro più l'IVA, quindi per noi è troppo, e purtroppo l'abbiamo dovuto escludere, e così qualche altro titolo. Però poi comunque i film belli di quegli anni sono talmente tanti che insomma non è che abbiamo avuto problemi nel dover togliere appunto dei film che ci sembravano fondamentali, però non si poteva avere tutto. Poi tra l'altro abbiamo inserito un film intitolato Il Nero, un film di Giovanni Vento, che praticamente è un film inedito perché non è stato mai visto. È stato per fortuna restaurato recentemente dal Museo Nazionale del Cinema a Torino, più altre cose. Potrei citarli tutti e 15 perché è uno meglio dell'altro. Il Cammino della Speranza, che aprirà per esempio la rassegna lunedì 6 dicembre alle 20:30 alla Casa del Cinema, è un film di Pietro Germi, secondo me strepitoso ancora oggi per la tematica che affronta, attualissimo. Germi tra l'altro era un regista socialista ed era quindi un po' anche bistrattato forse anche da una parte del Partito Comunista, però invece è un grandissimo regista, veramente rivedere questo film proprio ti si apre il cuore e la mente. Ripercorrono tutto un cinquantennio questi titoli? Esatto, questo che citavo, Il Cammino della Speranza, è del 1950 e l'ultimo film è del appunto 1990, con la fine dei partiti praticamente. Poi proietteremo anche, ci piace ricordarlo, perché proietteremo Il Sospetto di Maselli, perché tra l'altro coincide con il suo compleanno e quindi ci faceva particolarmente piacere. Questo succederà giovedì 9 dicembre. Come sono previste le proiezioni, legate anche a momenti di dibattito? Tutte le proiezioni saranno presentate dai critici, storici e registi. Per esempio, Il Cammino della Speranza sarà presentato in particolare dal conservatore della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale, Anile, perché appunto la Cineteca ha restaurato questo film molto di recente e l'ha presentato a Cannes. E quindi a Roma è la prima presentazione di questo bellissimo film in questa copia restaurata. Oltre a una serie di documentari veramente strepitosi, quello di De Seta, Il Tempo dei Pesci Spada, Delta Padano di Vancini, Scioperi a Torino di Carla e Paolo Gobetti, Il Canale, un piccolo gioiello di Bernardo Bertolucci, e poi sarà proiettato Il Gobbo di Carlo Lizzani, che sarà presentato da Giovanni Spagnoletti. Poi successivamente, tra l'altro, ci sarà un incontro con Marco Bellocchio, sempre coordinato da Spagnoletti, e la proiezione dei Pugni in Tasca. Il programma è, senza vantarci troppo, ma è veramente interessante. Per tutti i dettagli, dove si può cercare? Sul web? Su tutte le pagine dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio. Questa iniziativa è promossa dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio in collaborazione con appunto la Cineteca Nazionale, con il Gramsci, con la Casa del Cinema, con l'Università degli Studi Roma 3, in particolare una collaborazione che ci piace proprio sottolineare, perché vuol dire e ci auguriamo che ci sia la partecipazione di tanti giovani e di tanti studenti. La sinistra cinematografica in Italia dal 1950 al 1990, per la quinta edizione del progetto e le forme di un cinema politico, a Roma alla Casa del Cinema dal 6 al 9 dicembre e all'Università degli Studi Roma 3 il 10 e 11 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla coordinatrice Paola Scarnati. A presto! A presto, grazie, speriamo che ci sia tantissima gente, anche se ci saranno un po' di ingressi contingentati. Con Luca Ricciardi dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare l'edizione numero 0 di Anarchive, Found Footage Fest a Roma, al Live Alcazar dal 14 al 19 dicembre 2021. Ben trovato. Grazie, ben trovato a te. Raccontaci di questo numero 0. Intanto questa iniziativa nasce da un'esperienza che l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico sta portando avanti da diversi anni e che appunto va un po' sotto l'identificativo di Anarchive, che è un termine informatico, come probabilmente sapete, che letteralmente significa dearchiviare e veniva usato appunto per decomprimere i file zippati, no? E con questo termine abbiamo voluto individuare in qualche modo una piattaforma di attività che l'AMOD porta avanti nel segno del riuso creativo del cinema. Perché come sappiamo, ovviamente il cinema d'archivio ha una funzione di documento storico, di repertorio, l'ha sempre avuta e continua ad averla, quella ovviamente non la perderà, ma può essere anche utilizzato come materia cinematografica viva e in qualche modo come se fosse un girato. Cioè, in fondo è vero che l'archivio, il cinema d'archivio, le immagini di repertorio documentano un fatto del passato, ma se quel fatto è passato, non è passato quel documento, fa sempre parte del presente. Quindi in qualche modo un archive è un'idea d'archivio in cui l'archivio non esiste, oppure tutto è archivio, no? E quindi le immagini di repertorio si mescolano, si possono mescolare, si possono remixare, riutilizzare all'insegna di nuovi significati. La cosa interessante è che queste immagini, a differenza del girato nuovo, portano con sé, pure in una nuova costruzione narrativa, che può portarle lontanissimo dalla loro origine, portano sempre con sé il significato originario. Quindi spesso la cosa più bella del riuso creativo è proprio quando vediamo e ci stupiamo di fronte a opere, non solo film, che riutilizzano il materiale d'archivio facendoci o mostrandoci o richiamandoci il significato originario e mostrandoci le potenzialità di nuovi significati. Sono stati già realizzati dai partecipanti o sarà un lavoro sul campo in quei giorni? L'archivio porta avanti diverse attività anche di formazione, di produzione legata al riuso, però in questo caso un archive fa un footage fest. È proprio un festival che raccoglie non solo opere prodotte all'archivio, anzi ce ne sono solo un paio. In realtà è una selezione fatta insieme a Marco Bertozzi, a Giacomo Ravesi e a Chiara Digione, è una selezione di cortometraggi, lungometraggi e anche live performance che riutilizzano il materiale d'archivio in questa chiave appunto creativa che abbiamo detto, ma sono opere già realizzate, quindi è un vero e proprio festival. L'abbiamo chiamato numero zero perché è tanto tempo che pensiamo all'idea di fare un festival su questo, che in fondo in Italia non c'è, anche se esistono delle esperienze più legate per esempio al cinema di famiglia, però non c'è un vero e proprio festival del riuso cinematografico, e l'abbiamo chiamato numero zero perché nasce quest'anno in un'edizione appunto selezionata da noi. L'idea è quella, poi andando avanti, di trovare anche dei partner, altri archivi e costruire un festival che abbia un'ambizione insomma importante anche a livello internazionale, con una call pubblica per selezionare film e anche, come dicevo, opere che non si limitano al formato monocanale, quindi anche installazioni o opere che possono essere fatte dal vivo. Quindi questa è un po' l'idea di questo numero zero, non so, propedeutico, però i caratteri ci sono tutti, ecco questo. Quante sono le opere presenti? 9 cortometraggi, 7 lungometraggi e 5 live performance, insieme a alcune poi presentazioni di altre attività, e nella maggior parte dei casi saranno accompagnati da un incontro con gli autori. Come sono strutturate un po' queste 6 giornate? Allora, noi siamo dal martedì alla domenica, tendenzialmente però dalle 6 alle 7 proiettiamo dei cortometraggi di varia provenienza, anche provenienti da esperienze formative, scuole, perché poi questo tema del riuso è stato utilizzato molto anche nelle scuole, molto anche in quest'epoca di pandemia in cui non si poteva girare, quindi nelle scuole hanno deciso di cimentarsi sul riuso d'archivio. Quindi dalle 6 alle 7 cortometraggi, dalle 7 un lungometraggio per ogni sera e alle 9 tutte le sere le live performance, con alcune differenze, in particolare la serata di sabato comincerà alle 10 di sera ed è un po' più ricca, comincia un po' prima. Apriamo il martedì, che è un giorno difficile col freddo e prenatale, però apriamo con una cosa molto interessante, secondo noi, alle 17.30 Rondo Final, che è un lavoro di Gaetano Crivaro, Margherita Pisano e Felice D'Agostino, presentato a Vision d'Uriel, in prima mondiale e in prima italiana al Festival dei Popoli, per la prima volta a Roma. Un lavoro d'archivio molto interessante, anche qui molto interessante anche come hanno lavorato gli autori. Loro partono proprio da questo postulato che è anche il nostro: l'archivio non esiste. E quindi, per raccontare una processione che si svolge in Sardegna, hanno raccolto materiali d'archivio provenienti dai primi del Novecento fino ad oggi e in qualche modo rimescolandolo senza distinzione apparente tra i vari formati e i vari utilizzi. È un'opera molto interessante anche dal punto di vista antropologico. E poi la sera alle 19, una cosa a cui teniamo molto, l'ultimo documentario di Marco Bellocchio, che è uscito in sala quest'estate per pochi giorni. Ma il film è molto interessante perché Bellocchio per la prima volta racconta con un documentario in cui lui parla in prima persona e incontra i suoi familiari, racconta di quello che è stato un grande trauma della sua vita, cioè il suicidio di suo fratello minore, e lo fa per la prima volta in modo così esplicito, ma lo fa riutilizzando la propria cinematografia, quindi inserendo dentro il documentario, oltre che questa sorta di indagine sulle cause del suicidio del fratello, insomma, un film molto toccante, inserendo brani personaggi, sequenze di tutti i suoi film in cui questo trauma appare, affiora. Quindi c'è un riuso creativo e la cosa molto bella è che poi avremo anche Marco Bellocchio con Adriano Avrà, il grande critico, che parleranno proprio del suo film e del riuso di secondo Bellocchio. Segnalo anche in generale tutte le live performance, quindi dalle 21, perché è un modo anche di vedere, conoscere come il cinema d'archivio viene riutilizzato in una forma espansa, non solo per fare altro cinema, ma viene riutilizzato all'interno di opere che sono spesso abbinate con la sperimentazione musicale o teatrale. In particolare avremo mercoledì sera la prima live performance alle 21 di Salvatore Insano e Silvia Cignoli. Ci teniamo molto perché sono, parlavamo prima delle iniziative dell'AMOD, sono due artisti che si sono incontrati per la prima volta in una nostra residenza artistica. Hanno lavorato insieme e oggi fanno una nuova opera inedita, fatta proprio utilizzando il nostro materiale d'archivio, in questo caso dell'AMOD, che si chiama Allegoria della Terra e dell'Acqua. Giovedì sera abbiamo dei cortometraggi che vengono dal laboratorio di cinema della UAB. Poi alle 19 un film importante, si chiama Ziva Postec, la montatrice dietro il film La Shoah. Shoah di Lanzmann, un film che è nella storia del cinema e del cinema documentario. Questo lavoro ci racconta della montatrice che ha lavorato al film di Lanzmann. Ci sembra molto importante perché poi è anche una riflessione sul montaggio e nel riuso creativo il montaggio forse è la fase più creativa di tutte. A seguire alle 21 avremo Okapi, al secolo Filippo Paolini, un artista, soprattutto musicista, che però si cimenta anche con la parte visiva. È un capostipite della planderfonia, furto sonoro cosiddetto, cioè lui riutilizza spezzettandoli, rimizzandoli, solamente suoni già esistenti, non produce suoni. Anche qui nel concept della sua attività c'è molto, risuona molto con quello della nostra iniziativa. In questo caso presento un'opera che si chiama Otis, che sta portando in giro nei festival in Italia e all'estero da quest'anno. E poi venerdì sera avremo Sister with Transistor, anche questo è un film internazionale che ci racconta di come la musica elettronica sia nata da sperimentazioni che hanno fatto delle donne negli anni 50. Donne poi dimenticate, ma poi invece quelle sperimentazioni hanno portato alla grande diffusione della musica elettronica che tutti conosciamo. Anche qui il film che ha a che fare con il nostro festival, perché c'è molta musica elettronica nel nostro festival. La sera avremo Caterina Palazzi, contrabbassista con Kanaka, visual designer, per una live performance di contrabbasso, effetti, loop station e arti visive. Sabato, una giornata un po' più densa, presentiamo intanto un fondo che l'archivio sta acquisendo sul movimento della Pantera. Lo presentiamo con l'associazione Pantera 90 Archivio e faremo vedere alcuni brani estratti appunto da questo fondo, cioè dei girati coevi ovviamente al movimento, e racconteremo come questa associazione e l'AMO stanno collaborando per acquisire finalmente un fondo di un movimento di cui si parla poco, no? Ancora non è storicizzato e anche i fondi filmici sono un po' sparpagliati, non sono concentrati in un luogo, e quindi questo, diciamo, è l'inizio di questa attività. Presenteremo poi a seguire due cortometraggi del premio Zavattini, che è questa attività che facciamo di formazione e produzione di film a base d'archivio. Un'altra opera alle 20 di Walter Fasano, Pino, su Pino Pascali, l'artista morto precocemente, pop art italiana, finché ha girato abbastanza, che è stato premiato a Torino, però non è così noto. E lì c'è un riuso molto interessante anche del materiale fotografico, non solo del materiale filmico. E la sera di sabato alle 22 avremo un altro degli eventi importanti della nostra manifestazione. Avremo il trio Doctor 3 con Danilo Rea al piano, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, che improvviseranno, si parla di jazz, sui girati di Antonello Branca realizzati in California nel 68. Quindi anche qui di nuovo una commistione, un connubio, una sinergia tra musica dal vivo e immagini. Chiuderemo poi domenica con la prima assoluta del gruppo artistico collettivo, si chiama Artificial Landscapes. Questo è un laboratorio che è nato quest'anno e farà la prima assoluta da noi. Tra i vari autori c'è anche Francesca Fini, che è molto conosciuta, che lavora molto con il video. In questo caso il mix sarà musica dal vivo, immagini e danza. Cioè le immagini della danza sul palco verranno riprese, rielaborate, rimandate in video su una proiezione accompagnate dalla musica. Quindi un'estensione ancora ulteriore di questo riuso. Per i dettagli del programma, riferimenti web? www.anarchive.it/festival. Poi ci sono le pagine social, Instagram e Facebook.